L'uccellatore, il falco e l'allodola, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una legge universale sopra il mondo regge ed è: tu rispetta altrui se vuoi che rispetti gli altri te. Se i perversi fanno il male, c'ho uno scusa i falli tuoi. Tratta allo specchio, una meschina allodola venia dove un villan faceva zimbello agli uccellini. Allor che un falco librasi sull'ali, ed ecco rapido per l'aere precipitando piomba su lei, che canta all'orlo della tomba. La poverina avea sfuggito appena il perfido tranello che si sentì ghermir dal triste uccello. La legge universal ora vedrete, che mentre a spennacchiarla e l'unghie mena rimase stesso preso entro la rete. Lasciami andare, nella sua disdetta disse quel triste uccello al contadino, mal non t'ho fatto, abbi pietà di me. E questa poveretta che male ha fatto a te? Fine della favola, l'uccellatore, il falco e l'allodola. Questa registrazione è di dominio pubblico.